notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Un politico che viene indagato per corruzione lo indagherei per alto tradimento, se dovesse dipendere da me. E se dovesse dipendere da voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, quale sarebbe il vostro giudizio? Naturalmente cose civili, scrivete, posso capire l'indignazione, è un'indignazione di tutti, di noi, di voi, naturalmente di fronte a queste cose, l'ennesimo caso, lo scandalo, inutile che ve lo ricordo, ne abbiamo parlato molto ieri, appena venuta fuori la notizia del Mose, quindi tangenti, mazzette, appalti truccati, imprenditori, politici, chi più ne ha più ne metta, il sindaco Orsoni di Venezia arrestato, chiesti gli arresti anche per l'ex presidente della regione Veneto Galan, insomma un putpurri incredibile che ci fa insomma capire che è veramente un problema cronico, non c'è sud e non c'è nord in Italia, in questo il paese è molto unito. Questo quindi il giudizio, diciamo, molto sintetico, poi sentiremo altri passaggi di Renzi su quello che è successo. Qual è la vostra opinione? Ci sono i messaggi, sms che potete mandare al 349-238-6666 come tutte le sere in diretta, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte che è sempre a vostra disposizione in qualsiasi momento, anche lì potete scrivere le vostre osservazioni. Qualcuna già la vedo, però abbiamo tantissime cose di cui parlare, quindi inizio con il riassunto della giornata. La BCE taglia ancora il costo del denaro, lo porta al minimo storico, il governatore Draghi assicura non finisce qui. Lo scandalo del Mose, Renzi propone il DASPO per i politici corrotti e dice il problema non sono le regole ma i ladri. Ucraina, Obama e Cameron dettano le regole, il presidente americano sfida Putin e dice colga l'occasione o ci saranno conseguenze, domani faccia a faccia in Normandia. Sovraffollamento delle carceri, il Consiglio d'Europa promuove l'Italia, soddisfatto il ministro Orlando ma riconosce che c'è molto ancora da fare. Casa, secondo l'agenzia di rating Fitch il prezzo delle abitazioni in Italia scenderà ancora del 7%. E poi il calcio, azzurri pronti per partire a mezzanotte per il Brasile, il presidente della UEFA Platini avverte se le accuse sul Qatar sono provate è tutto da rifare per i mondiali 2022. E quindi partiamo dalla decisione del governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, di tagliare il costo del denaro. Aveva parlato di misure non convenzionali per dare una scossa alla crescita e oggi Draghi ha mantenuto la parola, è passato all'azione. Le borse sembrano aver apprezzato e non solo loro. Alla fine la Banca Centrale Europea, come i mercati si aspettavano, è scesa in campo per combattere la deflazione, rilanciare il credito a famiglie e imprese e aiutare la ripresa dell'economia. Le borse festeggiano con Milano più 1,5%, la migliore in Europa, sulla parità invece Londra e Francoforte. La prima mossa annunciata oggi da Francoforte è stata il taglio dei tassi. Quello principale dallo 0,25% allo 0,15%, nuovo minimo storico. Quello su depositi overnight delle banche, cioè la liquidità, che resta presso la BCE a meno 0,1%, prima volta in negativo. Poi in conferenza stampa le misure straordinarie di Mario Draghi. Due le principali: i nuovi maxi prestiti a lungo termine al sistema bancario, vincolati però questa volta all'erogazione del credito all'economia reale, l'accelerazione del piano per l'acquisto di ABS, i titoli garantiti emessi dalle imprese per coprire i crediti. All countries should continue to do structural reforms. I governi devono quindi andare avanti con le riforme, dice Draghi, ma gli interventi della BCE non finiscono qui. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quanto deciso dall'Istituto di Francoforte viene accolto positivamente da Palazzo Chigi. Bisogna usare tutti gli strumenti a disposizione dei quali peraltro l'Europa è dotata per dare nuovo slancio alla crescita e all'occupazione, fa capire il ministro dell'economia Padoan. I tassi bassi, spiega Padoan, sono una finestra di opportunità per l'Italia che crescerà grazie alle riforme, un piano complesso che darà risultati nel tempo. Per il ministro poi un faccia a faccia con l'omologo tedesco Schäuble, scambio di idee secondo Padoan, che aggiunge l'Europa agli strumenti economici per ottenere più crescita ed occupazione. Di nuova pagina europea con alla base sviluppo e crescita parla quindi il premier Renzi, per il quale l'austerity è di fatto alle spalle. Positivo il giudizio sul taglio della BCE anche dall'Associazione Bancaria Italiana. Si tratta di misure molto innovative ed efficaci per realizzare tempestivamente una decisiva e positiva spinta per la ripresa in tutta l'Unione Europea, commenta il presidente dell'ABI Patuelli. Occorre comunque, aggiunge Patuelli, che gli Stati, in particolare l'Italia, accolgano concretamente l'invito di Draghi a realizzare riforme innanzitutto fiscali. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E cosa cambia per le famiglie, le imprese, le banche dopo le decisioni di Draghi? Ci sarà uno speciale domani sul Sole 24 Ore, ma noi cercheremo di capirlo in anteprima tra poco. Una decisione è quella di tagliare il costo del denaro, che arriva proprio nel giorno dell'ennesimo allarme, questa volta lanciato dalla Confcommercio. L'Italia è ancora gravemente malata di bassa crescita, non è affatto fuori pericolo. È ancora una volta uno scenario cupo quello presentato da Confcommercio sulla situazione economica italiana. La ripresa è lontana, serviranno più di 11 anni per tornare a livelli pre-crisi, sostiene l'Associazione dei Commercianti. L'unica salvezza, dice il presidente Sangalli, sono le riforme, quella della spesa pubblica e quella del fisco. Troppe tasse gravano sulle imprese, a partire da quel combinato disposto IMU, TASI, TARI che potrebbe risultare letale. Ma c'è uno spiraglio di ottimismo nelle parole di Sangalli, fiducioso sulla nuova stagione politica di Renzi e del suo governo, che dice ha convinto molti. L'avvio delle riforme è veramente dietro l'angolo e soprattutto non si può tornare indietro. Fiduciosa si dice soprattutto il ministro dello sviluppo economico. Questa volta, dice Federica Guidi, ci sono le condizioni per tornare a crescere, solidale poi con le imprese sul fisco. Partiamo da un presupposto: di troppe tasse si muore. Poi la Guidi annuncia: terremo aperti i negozi così come le fabbriche, perché quello delle troppe saracinesche aperte è un dramma, mentre sulle bollette energetiche assicura. Immaginiamo che circa almeno il 70% dei commercianti possa beneficiare dello sconto in bolletta. Alessandra Schepisi, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E Renzi dal G7 da Bruxelles è tornato però oggi soprattutto sugli arresti per il Mose a Venezia. Servirebbe, dice, un DASPO per i politici corrotti. Ha detto, come vi dicevo, che la corruzione è alto tradimento. Poi ci collegheremo direttamente con l'inviato del Sole 24 Ore per capire, insomma, in conclusione di cosa si è occupato Renzi a Bruxelles. Però voi continuate a mandare i vostri messaggi sia a pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso il numero 349-238-6666. Su cosa ne pensate, insomma, di queste dichiarazioni di Renzi sullo scandalo Mose? E al vertice dei grandi, quindi al G7, ha parlato naturalmente anche il presidente americano Obama. Russian armed forces annexing pieces of. Nel suo intervento al G7 il presidente americano, lo sentite, è tornato a parlare di Ucraina, naturalmente, soprattutto di Russia, grande esclusa di questo vertice. Solo se Putin, ha detto, cambierà atteggiamento nei confronti del paese sempre più instabile anche per causa sua, cioè dell'Ucraina, gli si potrà ridare fiducia. Altrimenti, avverte Obama, l'unica alternativa sarà inasprire le sanzioni, visto che ciò che il presidente russo ha fatto fino adesso è illegale. Tra l'altro Obama resta in Europa per l'ultima tappa del suo viaggio, domani il ricordo dello sbarco in Normandia, il 70° anniversario, poi dovremo avere lo spazio per parlarne. Per l'Italia ci sarà Giorgio Napolitano. Dall'Europa intanto oggi è arrivata una buona notizia per l'Italia, una promozione, seppure non a pieni voti, sul sovraffollamento delle carceri. Vi ricordate, abbiamo parlato giorni scorsi alla scadenza di questo ultimatum dell'Unione Europea, un anno dalla condanna di Strasburgo, promozione data dal Consiglio d'Europa che riconosce gli sforzi fatti, e di questo parleremo poi più tardi col sottosegretario alla giustizia. Intanto in Europa si discute ancora di alleanze per formare gruppi parlamentari e il Movimento 5 Stelle lancia la consultazione online tra la base. Sul web per decidere l'alleanza in Europa con Farage, ma intanto scoppia il caso Giarrusso. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle saranno chiamati entro fine giugno a dire la loro sulle alleanze a Bruxelles. Lo annuncia il capogruppo alla Camera Giuseppe Brescia. Se l'opinione degli iscritti al Movimento sarà quella di non fare l'accordo con Farage, non si farà l'accordo con Farage. Farage sa questo, sa che noi siamo composti in questa maniera e quindi la parola spetta sempre agli attivisti del Movimento. Ma intanto è polemica per le frasi di Michele Giarrusso alla Zanzara. Il senatore grillino evoca la ghigliottina per quelli del Mose, dell'Expo e della TAV. Ai vari Orsoni e Galan taglierei la testa, dice. In Francia si sono sbarazzati di una classe parassitaria che viveva alle spalle del popolo. Subito la replica del dissidente Walter Rizzetto. Ma Giarrusso c'è o ci fa? Cambi poi nella comunicazione. Dopo lo scontro con Grillo e Casaleggio alla Camera viene riconfermato Nicola Biondo, affiancato da Ilaria Loquenzi, mentre Rocco Casalino resta responsabile al Senato. Grillo e Casaleggio vogliono abbassare i toni, ma intanto invitano i parlamentari a non perdere tempo con i giornalisti, vera catena di trasmissione del sistema. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci di nuovo all'estero adesso per parlare di Nigeria, dove c'è stata ancora una strage terribile, una delle più sanguinose degli ultimi anni. Ancora una volta c'è la loro firma, quella del gruppo integralista Boko Haram. Tra le 400 e le 500 persone sarebbero state assassinate negli ultimi attacchi ad alcuni villaggi nello stato del Borno, nel nord del paese. È un'uccisione di massa, ha affermato il deputato della regione Peter Bai. E se le cifre saranno confermate, il massacro nei quattro villaggi del Borno sarebbe uno degli attacchi più violenti dal 2009, che è l'anno d'inizio, diciamo così, dell'insurrezione di terroristi islamici. Una scia di sangue che in cinque anni ha causato morte, violenze, anche rapimenti, come nel caso, naturalmente lo ricordate, di più di 200 studentesse liceali sequestrate a metà aprile, ancora nelle mani di Boko Haram. Una vicenda terribile che ha mobilitato il mondo. Per l'ultima è stata l'Australia, che pochi giorni fa ha deciso di inviare truppe speciali alla ricerca delle ragazze, dopo che l'avevano già fatto Stati Uniti e Regno Unito. Ancora però non si sa nulla delle ragazze. Con la cronaca torniamo sulle notizie italiane con una brutta storia a Milano: violenze su ragazze di una scuola media. Insegnava arte in una scuola media del centro di Milano, 61 anni, sposato con un figlio, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di 5 alunne tra i 12 e i 13 anni. Con lui denunciate altre 4 persone, l'ex preside della scuola, quello attuale e 2 docenti. L'accusa per loro è comportamento omertoso, avrebbero taciuto dei fatti di cui erano a conoscenza. L'attuale preside avrebbe addirittura informato il professore di arte delle indagini in corso col tentativo di proteggerlo. La vicenda è emersa a marzo in seguito alla denuncia di un'associazione che svolge laboratori teatrali nella scuola. Uno degli esercizi affidati agli studenti consisteva nello scrivere una lettera alla persona che maggiormente li aveva fatti arrabbiare. Una ragazzina, vittima da mesi di molestie e palpeggiamenti, ha scelto lo stratagemma teatrale per denunciare il suo professore. Intercettazioni e colloqui protetti hanno consentito di individuare altre 4 giovanissime vittime. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia adesso che riguarda la casa. La correzione dei prezzi delle case in Italia ha iniziato a rallentare. Ci attendiamo che i prezzi delle case continuino a scendere ulteriormente anche del 7%. Lo afferma l'agenzia di rating Fitch in una nota, sottolineando che complessivamente il calo sarà del 20% dei prezzi, leggermente migliore del 22% precedentemente stimato. In chiusura parliamo naturalmente del calcio. La nazionale Cesare Prandelli, che è pronta alla partenza a mezzanotte, gli azzurri si imbarcheranno infatti da Fiumicino verso il Brasile, ma intanto potrebbe riaprirsi la partita per i mondiali del 2022. Che qualcuno abbia preso dei soldi in nero per pilotare la più grande follia del calcio, i mondiali del 2022 in Qatar, non è una notizia. La notizia, che ogni giorno che passa diventa più grande, è che siamo arrivati alla fase probatoria e il livello del liquame sale sempre di più fino ad inondare i piani alti del palazzo. Persino Blatter è sceso per un attimo dal grattacielo del suo ego smisurato, almeno quanto suo conto in banca, per ammettere che, forse sì, assegnare l'evento sportivo più importante del pianeta dopo le Olimpiadi all'estate del Qatar forse non è stata una grande idea. Si tratta ora di trovare le prove di chi abbia preso gigantesche mazzette, e il nome del presidente dell'UEFA, Michel Platini, è nella lista molto lunga dei sospetti. Lui si difende: sono trasparente, ho detto subito di aver votato Qatar e mi ritrovo sospettato di essere corrotto, sono cavolate. È quello che aspettiamo di scoprire, sperando. Nel frattempo però Platini aggiunge che se delle vicende di corruzione saranno provate, serviranno un nuovo voto e delle sanzioni. Sacrosanto. E qualcosa ci dice che i mondiali in Qatar non li vedremo mai. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sembra banale, insomma, tutto il mondo è paese, ma soprattutto l'Italia. Noi occupiamoci dell'Italia, di casa nostra. A proposito dei corrotti, vi dicevo, avevo fatto sentire la voce di Renzi che dice: alto tradimento per i corrotti, propongo il DASPO. Vedo già le vostre osservazioni, i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Arturo dice: prima avallano le regole che incentivano il crimine e poi fanno i paladini della giustizia. La doppia faccia del PD è davvero indecente, anche se qui davvero ai 360 gradi. Poi al 349-238-6666 Enzo da Pozzuoli propone: confisca dei beni, delle case, estradizione all'estero e non devono rientrare mai più in Italia. Più che estradizione lo chiamerei quindi un esilio a questo punto. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Un sacco di cose di cui parlarvi questa sera mentre continuo a vedere i vostri commenti, però prima di passare a esaminare il primo tema direi di ricordare a chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, però vi ricordo che la trasmissione parte alle 21, quali sono state le notizie in primo piano. La BCE, la Banca Centrale Europea, taglia ancora il costo del denaro, li porta al minimo storico. Il governatore Draghi assicura che non finisce qui. Lo scandalo del MOSE, Renzi propone il DASPO per i politici corrotti e dice il problema non sono le regole ma i ladri, e parla di alto tradimento. Ucraina, Obama e Cameron al G7 dettano le regole, il presidente americano anzi sfida Putin e dice colga l'occasione o ci saranno nuove conseguenze. Domani poi ci sarà il faccia a faccia in Normandia per il 70° anniversario dello sbarco. Sovraffollamento delle carceri, arriva una promozione dell'Italia dal Consiglio d'Europa, il ministro Orlando si dice soddisfatto ma è consapevole che ci sono ancora molte cose da fare. E poi per il calcio, azzurri pronti per partire a mezzanotte per il Brasile, il presidente della UEFA Platini avverte se le accuse sul Qatar di corruzione in questo caso sono provate, è tutto da rifare per i mondiali 2022. E adesso invece spostiamoci su, dicevo, le questioni affrontate a Bruxelles, in particolare da Renzi, con il nostro Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Gerardo. Buonasera a tutti. Allora Gerardo, Renzi era il suo debutto, no? Doveva parlare di energie rinnovabili, di sicurezza, si è parlato sicuramente molto di Ucraina, poi è stato investito chiaramente anche da questa questione inevitabilmente del MOSE, dello scandalo. Allora sentiamo un passaggio e poi commentiamo insieme, Gerardo. Un politico che viene indagato per corruzione lo indagherei per alto tradimento, se dovesse dipendere da me, perché uno che prende delle tangenti, tradisce il mandato, l'onore sul quale aveva giurato. C'è una norma costituzionale che parla di onore, l'abbiamo messa da parte, ma insomma forse dipendesse da me la riscrittura del codice parlerei di alto tradimento. Questo insomma in sintesi, a parte tutte le altre cose che ha detto Gerardo Pelosi, raccontacele un po' tu. Innanzitutto lui nei compiti che avevano i capi di Stato e di Governo di questo G7, che è ritornato a una formula precedente, il G8, come sappiamo, G8 si doveva tenere a socio e poi per la vicenda dell'Ucraina la Russia è stata esclusa e quindi si è ritornati indietro al G7. Il primo G7 di Renzi doveva appunto relazionare sul G7 energia che si è tenuto a Roma, sulla sicurezza energetica il primo di maggio e poi anche sulla Libia, la sicurezza in Libia e la questione migratoria. Nel G7, questo G7 è stato però anche per gli incontri a margine, gli incontri bilaterali tra i membri europei di questo vertice, anche una sorta di pre-summit europeo in vista del Consiglio europeo del 26 che dovrà affrontare il nodo delle nomine ai vertici istituzionali dell'Unione Europea, cioè Presidente della Commissione, Consiglio europeo, l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione e il Presidente dell'Eurogruppo. Non si è parlato ovviamente dei temi del MOSE, perché questi erano temi nazionali, però in conferenza stampa ovviamente questo è stato uno dei temi che poi va a impattare anche sul problema dell'Expo del 2015 e sul semestre. In molte riunioni del semestre europeo si terranno a Milano proprio per usare il semestre come, diciamo, volano, come turbo per poi lanciare l'Expo del 2015. La durezza di Renzi sulla corruzione, il DASPO a vita per i corrotti lo aveva già detto, sì, è nuova questa cosa, se dipendesse da me parlerei di altro tradimento, perché letteralmente ha detto, sto leggendo, chi prende le tangenti, tradisce l'onore sul quale aveva giurato, dipendesse da me parlare di altro tradimento. La preoccupazione vera di Renzi è che i magistrati, da un lato, certo, devono fare il loro lavoro e lui l'ha detto, piena fiducia nell'opera dei magistrati, presunzione di innocenza fino a sentenza, ma c'è anche il rischio che, per esempio, per Milano un'opera non corretta dei magistrati potrebbe anche portare a una chiusura di cantieri e a ritardare quella che si immagina essere una vetrina dell'Italia per il 2015. Quindi bisogna, come dire, rendere compatibili le esigenze della giustizia e le esigenze ovviamente di portare a termine dei progetti, perché non si può buttare, come si dice, il bambino con l'acqua sporca e tutto quanto insieme. Quindi questo è un poco il quadro. Grazie Gerardo Pelosi, grazie. Adesso Renzi poi sarà partito anche lui, immagino, per Parigi, per la Normandia? No, perché ti spiego, sarà in Normandia, ci sarà il Presidente della Repubblica Napolitano, e quando c'è il Presidente della Repubblica, il primo ministro, il Presidente del Consiglio non c'è mai. C'è un rappresentante del governo, che di solito è il ministro degli esteri, un sottosegretario degli esteri, ma le due figure istituzionali si escludono, e quindi sarà Napolitano con Hollande, Obama. E ne basta uno, insomma. Basta esatto. Napolitano per tutti. Grazie Gerardo Pelosi. Grazie. Ciao Gerardo. Ciao. Europa 24 notte. Adesso ci concentriamo, quindi abbiamo fatto, diciamo, un quadro più internazionale questo, ma ci concentriamo invece sull'Europa con la BCE e con il governatore Mario Draghi. Vi dicevo, notizia forte di oggi, ha portato i tassi giù allo 0,15%, il minimo storico, quindi il costo del denaro. Però Alessandro Merli, ciao Alessandro. Buonasera. Alessandro Merli del Sole 24 Ore. Io vorrei che tu spiegassi, visto che domani c'è anche l'inserto del Sole che spiegherà bene cosa cambia per le famiglie, cosa cambia per le imprese, eccetera, che tu lo spiegassi come fossimo ragazzi di terza media. È possibile questa cosa? Beh, diciamo le conseguenze. Draghi ha varato un pacchetto abbastanza complesso, ma cerchiamo di spiegarlo certo. In termini abbastanza semplici. Il primo elemento che ci si aspettava era che Draghi abbassasse i tassi di interesse, e non solo i tassi che pratica alle banche, ma anche ha abbassato i tassi sui depositi delle banche stesse presso la BCE, cioè le banche hanno dei conti presso la BCE, questo tasso era zero, passa in territorio negativo. Cosa vuol dire? Che le banche, per lasciare questi soldi parcheggiati alla BCE, dovranno pagare, e questo è un modo per incentivarle a prestare questi soldi e non a lasciarli invece in parcheggio presso la BCE. Questo è il primo elemento, ma forse l'elemento più importante, anche quello più interessante ai fini, diciamo, delle imprese e delle famiglie, è che Draghi ha varato questa concessione di liquidità alle banche a condizioni molto favorevoli su un periodo di 4 anni, che poi può essere fatta in fasi successive, per un ammontare massimo di 400 miliardi di euro, e a differenza che in passato ha detto questi soldi vi verranno dati a queste condizioni molto vantaggiose solo se li presterete a famiglie e imprese, perché come sappiamo il credito è abbastanza paralizzato, soprattutto in diversi paesi del sud dell'Europa, in particolare l'Italia, la Spagna, ma anche il Portogallo e altri, e imprese e famiglie non ricevono credito, è un problema molto grave per molte di loro. In passato la BCE ha già fatto di queste forniture di liquidità alle banche, le banche però o se la sono tenuta o l'hanno parcheggiata presso la BCE, cosa che la BCE oggi vuole evitare, oppure hanno comprato dei titoli di Stato per rafforzare i propri bilanci. Adesso la BCE, con questa nuova operazione mirata, targeted come l'ha definita Draghi, vuole fare in modo che le banche non si tengano i soldi o non li investano in titoli di Stato, ma effettivamente li prestino a imprese e famiglie che ne hanno. Giustamente vogliamo dire, Alessandro Merli, giustamente. Senti, se vogliamo dare un giudizio. Poi ha detto però non finisce qui, non so se è una specie di minaccia o di rassicurazione. Beh, ha detto non finisce qui perché ha detto io sono convinto, sono fiducioso, noi, perché il Consiglio si è pronunciato all'unanimità, quindi tutti i governatori delle banche centrali nazionali più i 6 membri del comitato esecutivo della BCE sono pronunciati all'unanimità per le misure prese oggi. Noi siamo fiduciosi che queste basteranno a far ripartire il credito, quindi l'economia, e quindi anche far risalire un po' l'inflazione, che al momento è molto molto bassa. Però non abbiamo finito qui, nel senso che se ce ne sarà bisogno, ha detto Draghi, interverremo con altre misure successive, che poi potrebbero essere acquisto di titoli o altre misure che la BCE si riserva di prendere se le cose non dovessero migliorare. E francamente c'è qualche osservatore di mercato che ritiene che prima o poi la BCE ci dovrà arrivare, magari dopo l'estate. Anche perché Draghi ci sembra decisamente iperattivo. Grazie Alessandro Merli. Ciao Alessandro. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E dall'Europa a cavallo tra Stati Uniti, Normandia, Bruxelles, effettivamente ancora Europa, con il nostro Mario Platero al seguito del presidente Obama. Ciao Mario. Pronto Mario? Eccomi. Eccoci qui Mario. Tu hai seguito Obama che ha fatto delle dichiarazioni importanti naturalmente al G7, soprattutto nei confronti della Russia, ancora la minacciata di altre sanzioni, ha detto a Putin colga l'occasione di questa voglia di confronto, ancora di mediazione, prima che poi ci siano delle conseguenze più gravi, e poi esprimendosi sull'Ucraina e legando anche la questione domani al 70° anniversario dello sbarco in Normandia, un po' insomma l'Obama che fa capire che gli Stati Uniti devono comunque sempre essere in qualche modo a fianco dell'Unione Europea, dell'Europa in genere, perché sennò l'Europa da sola non ce la fa, non ce la fece allora contro la Germania nazista e adesso con l'Ucraina che continua a essere questa situazione di crisi, una patata bollente che l'Europa da sé non sa gestire, no? Beh, direi che sì, direi che è un po' più equilibrata la situazione, perché vedi, il voto europeo è stato un voto che ha preoccupato gli Stati Uniti, perché è stato un voto nazionalista, è stato un voto populista, molta opinione pubblica europea ritiene, secondo me, per ignoranza, per superficialità, per populismo, per quello che credi, che Putin abbia ragione a fare quello che fa. La questione viene liquidata molto spesso, devo dire, lo vedo anche nei messaggi che ricevo su Twitter molto frequenti, con un'idea che la Russia sia accerchiata dall'Europa, dall'America, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso credo che l'Europa è ben felice, soprattutto l'Europa dell'Est. Devo dirti che quando eravamo in piazza a Varsavia l'atmosfera era straordinaria. Ecco, loro davvero sentono molto quello che sta capitando, perché per loro la liberazione è una cosa molto più fresca, recente, parliamo di 25 anni fa, per noi è di 70 anni fa. Quindi quell'Europa, l'Europa dei Baltici, l'Europa centrale, l'Europa orientale, ha bisogno degli Stati Uniti ed è stata felice quando Obama ha detto confermo che saremo al vostro fianco, che l'articolo 5 sarà rispettato. La nostra Europa più, diciamo, più occidentale è un po' più cinica in questo, però si è schierata lo stesso completamente al fianco di Obama, più cinica perché? Perché teme che queste sanzioni possano produrre dei danni economici. Poco fa era una cena qui a Parigi, siamo già arrivati a Parigi da Bruxelles, Barack Obama e Hollande, e insomma Barack Obama non è molto felice per esempio del fatto che la Francia abbia venduto delle navi da guerra alla Russia e continui a mantenere gli ordini in produzione e le consegne secondo quanto era stato prestabilito. Però per la Francia è importante, l'economia non va bene, avere dei posti di lavoro è ovviamente molto significativo. Dunque c'è una situazione un po' più complessa, però quello che mi ha colpito a Bruxelles al G7 invece è stato proprio il fronte unito fra i paesi europei, e inclusi poi Canada e Giappone che fanno parte del G7 e gli Stati Uniti, nel dire no, qui questa cosa non va nel dimenticatoio, non è che più passa il tempo poi magari ce ne dimentichiamo. In Ucraina è stato commesso un atto fuori dalla legalità e dunque va messo a posto, bisogna riportare ordine. Non so se hai visto, ma ci sono tre punti che il G7 ha chiesto e poi lo ripeteranno negli incontri bilaterali di Hollande con Putin, domani, di Cameron e di Merkel. Questa sera c'è questa cosa bizzarra per cui Hollande ha fatto prima una cenetta qui rapida a Parigi, in un ristorante parigino con Barack Obama, e poi con Putin. È andato di corsa all'Eliseo per fare una seconda cena con Putin. Acrobazie gastronomiche. Acrobazie gastronomiche, sì, ti dico le nostre acrobazie, perché ieri mattina eravamo a Varsavia, ieri notte eravamo a Bruxelles, oggi siamo a Parigi, fra poche ore alle 4 del mattino partiamo col convoglio della Casa Bianca per andare in Normandia, dunque devo sbarchi dire, anche tu insomma andiamo in Normandia, sì, saremo domani sulle spiagge e per questa celebrazione e quindi ti dicevo i messaggi e le richieste sono tre. Uno, che ci sia dialogo con il nuovo presidente eletto in Ucraina, cosa che per ora Putin rifiuta. Due, che si interrompano gli appoggi logistici, militari e finanziari ai ribelli, perché capito, la Russia ha fatto così, marcia indietro, ci ritiriamo le nostre truppe e dopodiché però continua a mandare i suoi uomini segretamente nelle zone periferiche dell'Ucraina orientale perché organizzino questa resistenza al governo. E infine che si ricostituisca sul piano politico una stabilità anche territoriale. Ecco, io non so se Putin accetterà tutti e tre questi punti, ma Obama è stato molto chiaro: nel momento in cui ci fosse un punto d'incontro, e i due tra l'altro domani si parleranno in Normandia, c'è una colazione di tutti i capi di Stato presenti, e tutti ci hanno detto che insomma ci sarà un incontro fra i due informale, una chiacchierata. Obama ripeterà quello che hanno detto gli altri leader, e cioè che se Putin decide di fare un po' marcia indietro, di negoziare con l'Occidente, di negoziare soprattutto direttamente con l'Ucraina, perché poi l'Ucraina è disponibile a fare delle riforme istituzionali, una decentralizzazione dei poteri regionali, una sorta di federalismo. Ecco, nel momento in cui questo negoziato c'è, allora, dice, forse avremo un minimo di fiducia che potrà essere ricostituita e riprendere un dialogo con la Russia. Infatti, speriamo domani di poterci riaggiornare con te, Mario Platero, allora, su questa cosa. Quando vuoi, Roberta. Buona continuazione, intanto. Ciao Mario. Ciao. Bene, adesso dobbiamo proprio fermarci. Vedo una notizia che di pochi istanti fa, di calcio. Cellino vende il Cagliari a Giulini. Giulini di Fluor Sid. Tommaso Giulini lo ha confermato in serata Giuseppe Accardi, legale della società. Quindi, se ritenete questa notizia sia importante, lo è effettivamente. Vendite varie, anche in questo caso di una squadra. Vedo ancora i vostri messaggi, che leggerò soprattutto dopo. Dice questo ascoltatore: il punto a proposito della corruzione è ingiustizia sociale. Chi ha i soldi per difendersi e amicizie politiche che non paga, Lusi, Anemone, Ricucci eccetera, sono in galera, ecco perché si continua a delinquere, sanno che la fanno franca. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Stanno affluendo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito del tema che tratterò con il prossimo ospite tra pochissimo. Ne abbiamo già parlato ampiamente ieri, ma insomma vale la pena di ritornarci, visto che il presidente dell'anticorruzione Cantone ha detto che questo scandalo di Venezia, del Mose, è anche più grave di quello dell'Expo, quindi immaginatevi. Leggevo diversi messaggi, adesso vediamo se ne recupero qualcuno. Per esempio Stefania dice: sono convinta che dietro i corrotti ci siano i partiti, mostri onnivori cui non basta mai nulla, si arraffa fino allo spasimo dando in pasto all'opinione pubblica qualche personaggio pubblico per poi continuare indisturbati il sacco della nazione. Una bella espressione questa, il sacco della nazione. Prima allora di entrare più a fondo nell'argomento, naturalmente vi riassumo, come dopo ogni pausa, quelle che sono state le notizie principali di oggi. Draghi, il governatore della Banca Centrale, taglia i tassi al minimo storico, lo 0,15%, e poi i mercati brindano, ok, da parte del Fondo Monetario, no comment della Merkel. L'ira di Renzi contro la corruzione come alto tradimento, dice: il problema non sono i ladri, non le regole, presto ci saranno nuove norme. Poi per l'Ucraina, Obama e Cameron al G7 che dettano la linea, Putin va a Parigi, domani si celebra lo sbarco in Normandia, Kiev intanto chiude i confini, Mosca protesta, ma rischia altre sanzioni da parte del G7. Poi per i mondiali del 2022, già si pensa a quelli del 2022, anzi che sono già stati assegnati al Qatar, Platini, presidente dell'UEFA, dice: si rivoti se Qatar è colpevole di corruzione. Intanto la nostra nazionale partirà a mezzanotte per il Brasile con tante incognite, però Prandelli garantisce: stiamo meglio di un anno fa. E noi come stiamo? Come stiamo con la corruzione dilagante? Lo chiedo a Roberto Papetti, che saluto. Buonasera. Buonasera. Ciao. Direttore del Gazzettino, quotidiano di informazione del Nord-Est. Roberto, tu sei sul territorio, ampiamente ve ne state occupando. Io ti faccio sentire un passaggio tra i vari di Renzi e poi mi dici, insomma, qual è la tua impressione da direttore di un giornale che è appunto sul territorio. La sintesi è che sicuramente noi interverremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sui temi degli appalti pubblici, dell'Autorità Nazionale per la Anticorruzione, degli interventi specifici. Però il punto centrale, vorrei che fosse chiaro: non possiamo tutte le volte che c'è una vicenda di corruzione dire che il problema sono le regole. Il problema sono i ladri, non le regole. Poi le regole si possono modificare, implementare, ripensare, e lo faremo, per carità di Dio, perché il diritto è un processo che segue i tempi, i ritmi della società. Però il punto centrale è: smettiamo di dire che ci sono i ladri perché non ci sono le regole. Ci sono i ladri perché c'è gente che ruba. La gente che ruba va mandata a casa. va processata, bisogna aspettare che sia condannata in modo definitivo, bisogna avere il pieno rispetto di tutte le presunzioni costituzionali, ma il problema delle tangenti non sta nelle regole, sta nei ladri. Leggo ancora uno dei vostri messaggi. Emilio dice: non è vero quello che dice Renzi, ovvero che le regole ci sono, il problema sono i ladri. Il fatto è che le pene, una volta scoperti corrotti, sono troppo lievi, anzi ridicole. In definitiva la corruzione è così diffusa perché il gioco vale la candela. Rischiano, dice Emilio, pochi mesi di carcere per guadagnare in un colpo solo quanto un lavoratore onesto guadagnerebbe in secoli di duro lavoro. Sono molti messaggi, Roberto Papetti, poi te ne leggerò altri. Però c'è invece un messaggio battuto dalle agenzie di pochi istanti fa del presidente Napolitano, che dice: bisogna valorizzare l'immagine dell'Italia contro i pregiudizi. Diventa sempre proprio complicato, però, Direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Ma io credo che Renzi abbia ragione, nel senso che certamente c'è un deficit di regole, o meglio, probabilmente c'è una selva di norme, di codicilli che in realtà agevolano l'attività dei corruttori. Certamente c'è un'esigenza di semplificazione, di chiarezza e anche di controlli mirati. Detto ciò, mi sembra che da queste vicende, perlomeno da quello che possiamo leggere nelle ordinanze, emerga un problema enorme di etica, di assenza, di tremendo deficit di etica, di responsabilità da parte non solo della classe politica ma della classe dirigente di questo paese. Perché se è vero quello che emerge dall'indagine della Guardia di Finanza e della Magistratura di Venezia, qua coinvolti non abbiamo solo personaggi politici, certo ci sono anche quelli, ma ci sono alti esponenti delle istituzioni. C'è un ex generale della Guardia di Finanza. Un generale della Guardia di Finanza, ci sono molti imprenditori. La politica ha sicuramente le sue responsabilità, però in questo caso c'era un pezzo importante di classe dirigente che si era messa a disposizione alla mercé, al soldo, del consorzio Venezia Nuova, da quanto emerge da queste indagini. Quindi c'è un problema veramente di etica della responsabilità. Si possono fare tutte le leggi che si vogliono, si possono inasprire i controlli, ma se al fondo non c'è questo elemento, questo rigore da parte della classe dirigente del nostro paese, io non voglio fare generalizzazioni, però insomma, se noi mettiamo in fila tutte le vicende solo degli ultimissimi tempi, è sconcertante e sconfortante. Già. E adesso ti farei sentire, Roberto Papetti, farei sentire le ascoltatrici e gli ascoltatori, o chi l'ha già sentito ieri può risentirlo, solo una piccola parte della chiacchierata che ho fatto con la presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto. Sentiamo. Per una realtà come quella di Venezia, che già sta vivendo dei problemi di non poco conto, trovarsi in una situazione di questo tipo lascia tutti assolutamente sconcertati. Ecco, quindi dopodiché ci sarà la giustizia che farà tutto il suo lavoro, quindi credo che in questo momento noi non dobbiamo fare né gossip né anticipare giudizi che non spettano a noi. E intanto io credo che appare evidente che il sistema è corrotto a 360 gradi, perché in questa situazione sono coinvolti non solo i politici ma anche i funzionari, ma anche ex finanzieri, quindi voglio dire è un sistema che non è che abbia un punto fragile in un suo elemento, ma evidentemente è tutto che deve essere rivisto. Dopo, la prima domanda che uno dovrebbe farsi non è tanto individuare nell'opera grande il capo espiatorio di un sistema di corruzione, quanto chiedersi come può essere che un'opera che parte con una spesa, con un valore di un milione di miliardi, diventi poi di 3, di 5, come è il caso del MOSE, quindi quadruplicata rispetto alla fase iniziale. E da questo desta sospetto, perché nelle gare d'appalto questo non dovrebbe assolutamente accadere. Quindi chiedersi a distanza di tutti questi anni che cosa è successo mi sembra quasi ridicolo. È effettivamente un po' ridicolo, no, Roberto Papetti? Anche perché poi diventa una questione di matematica, anche per chi in matematica non è forte. Se doveva costare tot, poi si vede che si moltiplica, ma andiamo a vedere perché. Questo è assolutamente, assolutamente vero, però c'è un aspetto che forse non viene sottolineato in tutta questa, adeguatamente in tutta questa vicenda del MOSE. L'inchiesta sull'Expo, nell'inchiesta sull'Expo c'erano degli imprenditori che pagavano per avere degli appalti. In questo caso non c'è nessuna gara di appalto. Il consorzio Venezia Nuova era concessionario unico. Non c'era la concorrenza, infatti. Non c'era concorrenza. Aveva solo il problema di oliare i meccanismi di controllo e di finanziamento. Quindi siamo di fronte veramente a una situazione inedita anche per il sistema della corruzione italiano. Qua non c'era qualcuno che pagava qualcun altro per far arrivare prima o per condizionare coloro che dovevano assegnare gli appalti. No, qua c'era qualcuno che oliava il sistema, aveva messo in piedi un sistema di consenso e di facilitazione per non avere ostacoli nella realizzazione di un'opera di cui aveva l'assoluto controllo e l'assoluta gestione. Tra l'altro da 31 anni che quest'opera si deve concludere, no? Allora, anche questo è vero, va anche precisato che la prima pietra è stata messa nel 2003. Se l'opera viene conclusa nel 2016, stiamo parlando di un'opera di 5 miliardi e mezzo di valore, di un'opera tecnologicamente unica, non è mai stata realizzata, non mi sembra che siamo da questo punto di vista su degli standard scandalosi di tempistica considerata la complessità. Sulla tempistica no, è il resto insomma. Invece ciò che fa riflettere sono le modalità con cui è stato erogato il denaro, con cui è stato speso e la lievitazione del costo finale del MOSE. Questo sì, certo. Tra l'altro, l'ultima notizia, Roberto Papetti, che ho visto sull'inchiesta, è che si allarga questa inchiesta sul MOSE perché la Procura di Venezia starebbe disponendo una serie di verifiche su decine di imprese non coinvolte direttamente con Consorzio Venezia Nuova, che è appunto quello che gestisce la costruzione del MOSE, ma che potrebbero comunque aver partecipato al sistema per occultare fondi neri da utilizzare per pagare tangenti a funzionari politici. Quindi investigatori e inquirenti non escludono che il giro di mazzette possa essere ben più ampio dei 22-25 milioni accertati, che sia nell'ordine di centinaia di milioni. Insomma, quindi posso capire anche l'indignazione di Giuseppe, di Michele, di Arturo, di Stefani, tutti quelli che stanno scrivendo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma in genere diciamo cittadini italiani che vedono sperperare in questo modo, no, denaro pubblico. Ma l'indignazione è comprensibile. Però vorrei anche far notare una cosa, che ovviamente con meno clamore, ma negli ultimi anni in questa regione, in questo territorio, è stato arrestato per tangenti l'amministratore delegato della Venezia Padova, che tra l'altro è stato riarrestato anche in questa operazione, che era un esponente del Partito Democratico. Sono stati arrestati una serie di funzionari dell'amministrazione provinciale, arrestati e condannati, perché pilotavano lavori pubblici nelle scuole, eccetera, eccetera. È stato arrestato un geometra e con lui una serie di funzionari, di piccoli funzionari del Comune di Venezia, per decine e decine di mance e mancette, stiamo parlando, no, di centinaia, poche migliaia di euro, per facilitare i lavori di ristrutturazione, che è vero a Venezia sono particolarmente complicati, ma ahimè questo non giustifica. Voglio dire, non è che siamo di fronte veramente a un problema di comportamento, che non, questo non vuol dire assolvere nessuno, ma oggi noi parliamo del MOSE come se il MOSE fosse calato in un territorio che mai ha conosciuto l'onta, certo, di collusioni con la politica. In questo, la dicevo, politica a fare. E non è assolutamente vero. Purtroppo, tra l'altro, tutte queste indagini sono state condotte, forse vale la pena di ricordarlo, dallo stesso nucleo di polizia tributaria che ha gestito anche le indagini sul MOSE. Roberto Papetti, non c'è nord e non c'è sud, come dicevo, quindi l'Italia è tutta unita da questo punto di vista. Da questo punto di vista ci sono certamente delle differenze, però quello che sta emergendo nelle regioni del nord in questi tempi è assolutamente vergognoso. Vergognoso. Roberto Papetti, io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Ringrazio a voi, buon lavoro a voi. Grazie, ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo adesso in pochi secondi, così passiamo subito a un altro tema, la BCE che taglia ancora il costo del denaro, lo scandalo del MOSE che si allarga con Renzi che propone il DASPO per i politici corrotti, l'Ucraina, Obama e Cameron ne hanno parlato e non solo loro, naturalmente tutti i grandi al G7, il sovraffollamento delle carceri di cui parleremo tra pochissimo col Consiglio d'Europa che promuove l'Italia e poi i mondiali con gli azzurri pronti a partire a mezzanotte. E saluto e do il bentornato a Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla giustizia. Buonasera Ferri. Salve, buonasera a lei e a tutti coloro che ci ascoltano. Allora Ferri, ci eravamo sentiti alcuni giorni fa, a fine maggio, perché scadeva l'ultimatum dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia, la condanna insomma che aveva fatto dell'Italia il paese che si doveva vergognare per il sovraffollamento delle carceri, per le condizioni incivili dei detenuti. L'Italia si è data evidentemente da fare. Oggi c'è stata questa promozione, però diciamo con riserva, nel senso mi pare di capire che però ci sono ancora delle cose da fare, no? La situazione è certamente migliorata. Sì. Ci sono e come ha detto anche oggi il ministro Orlando, siamo molto soddisfatti, però è un risultato importante che non ci deve far adagiare, quindi noi guardiamo avanti e siamo pronti a dimostrare all'Europa che abbiamo tutte le carte in regola e che vogliamo risolvere un problema di cui si parla da anni. Quindi oggi intanto è importante perché l'Europa ha ritenuto credibili, affidabili e idonee le nostre misure poste in essere. Misure che alcune sono già a regime, ne abbiamo parlato in più occasioni, e altre dobbiamo ancora sperimentarle, dobbiamo ancora portare gli effetti positivi. Quindi si aggiungono a quello che è stato già fatto. E l'affidamento in prova è stato portato a 4 anni anziché a 3 e quindi questo puntare sulla rieducazione, sulle misure alternative e inoltre la legge sulla messa alla prova dovrà partire, quindi è già legge, però ancora gli effetti positivi li avremo più avanti, così come la nuova pena che il giudice può irrogare, che è quella della sanzione della reclusione e dell'arresto domiciliare. Ecco, di queste misure, mi scusi, sottosegretario Ferri aveva parlato ampiamente, no, giorni fa quando ci siamo sentiti, poi esatto. Lei sa, aveva aggiunto cosa che avevano anche sollecitato molti ascoltatori, si sa, l'opinione pubblica spesso torna a questo argomento, cioè anche la possibilità, al di là della rieducazione, delle pene alternative, però anche di costruire nuove carceri, anche questo va avanti? Sì, va avanti anche il piano delle carceri, perché noi agiamo su più binari e quello dell'edilizia penitenziaria è sempre un aspetto che noi stiamo valorizzando e su cui stiamo investendo, quindi stiamo puntando sull'allargamento degli istituti che abbiamo già, centralizzando e rendendo dove possibile ampliando gli istituti e nello stesso tempo stiamo verificando la possibilità di costruire anche nuove carceri, però costruire un carcere non si può fare in 3 giorni e quindi è importante che il piano vada avanti, che intanto si recuperino i padiglioni e si amplino quelli esistenti per recuperare posti letto, ma si pensi anche a altre misure. E l'altro problema che risolveremo nei prossimi giorni portando un provvedimento importante è quello che ci chiede l'Europa e di risolvere il problema dei giudizi che sono pendenti per il risarcimento del danno, perché molti detenuti hanno fatto ricorso alla Corte Europea chiedendo un risarcimento del danno. Mm. Sono migliaia di ricorsi e noi dobbiamo evitare che l'Europa ci condanni a pagare delle somme, perché certo. In questo modo il bilancio dello Stato. Sappiamo che è già in crisi. Mi scusi, sottosegretario Ferri, c'è un'altra cosa importante che penso la possa riguardare. Oggi una giudice del Tribunale di Roma, Paola Di Nicola, ha detto che la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari dal 31 marzo 2015 potrebbe essere un rischio, perché potrebbe mettere in libertà persone molto pericolose. Io le farei sentire un passaggio di questa intervista alla giudice Paola Di Nicola al microfono della nostra Adriana Fracchia. Questa era una legge indispensabile per i diritti umani. Volevamo questa legge, anche noi giudici, perché ci rendevamo conto dell'ingiustizia di situazioni del genere, di persone che stessero in ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo superiore alla pena massima prevista per il reato per il quale erano in misura di sicurezza. Il problema è che però noi immaginavamo che, usciti dall'ospedale psichiatrico giudiziario, ci fosse qualcuno che si facesse carico dal punto di vista istituzionale e sanitario, oltre che della prevenzione sociale, di persone che escono per ragioni giuridiche dall'ospedale psichiatrico ma continuano ad essere pericolosi. Ecco, quindi sottosegretario Ferri, abbiamo appunto poco meno di un minuto per... Guardi, queste preoccupazioni sono state affrontate dal governo, e nel dare la proroga di un anno, che è stata data a malincuore, come ha detto in modo autorevole il Presidente della Repubblica, abbiamo pensato a questo. Intanto abbiamo affermato per la prima volta un principio di grande civiltà, che uno non può stare tutta la vita in un ospedale psichiatrico giudiziario. Lo ripeto, tutta la vita, perché in molti casi, è vero che c'era la verifica del giudice ogni 6 mesi, ma in alcuni casi abbiamo situazioni di soggetti che sono lì da 20-30 anni. Da troppi anni. Sottosegretario Ferri. Non ho prospettiva. Però questo della pericolosità lo voglio dire, perché è importante. Mi dicono che dobbiamo... Sì, prego. Io tengo molto alla tutela della vittima e alla tutela e alla sicurezza pubblica. Perché e qui intanto il giudice deve sempre verificare la pericolosità ogni 6 mesi. E un po' poi che comunque ha terminato, la persona è stata, come ha detto la collega di scuola, per la pena massima prevista dentro l'OPG, che comunque è un limite massimo, ecco che creeremo e abbiamo già creato un tavolo di coordinamento, perché Regioni, Ministero della Salute e la parte appunto che riguarda l'autorità giudiziaria verifichino che ci siano strutture idonee ad accogliere poi queste persone, chiaramente, perché sennò il problema sono altre conseguenze. Sottosegretario Ferri, avremo tempo di parlarne, la ringrazio, io devo chiudere e con gli ascoltatori ci sentiamo tra pochissimo.